Grazie dell'invito, io mi sento in parte ospite, non perché sono qua alla statale dove lavoro, ma perché sono in mezzo a storici, non essendo storico, con il titolo di una giornata, accidenti a voi, un po' impegnativo. Quale futuro per la storia? Penso che sia impegnativo per gli storici, figuriamoci per chi è storico. Perlomeno avrò la decenza di non pormelo neanche come interrogativo. Ecco, però poi c'è questo sottotitolo che mi sembra essere un po' il filo conduttore dal primo intervento, ovvero la provincializzare l'Europa per una nuova storia mondiale, e gli interventi precedenti, insomma, trovano del tutto d'accordo con la presentazione, riconosco le prospettive, non è una disciplina così lontana e vedremo anche il perché. E in che modo l'antropologia può riflettere sulla provincializzazione dell'Europa anche in relazione a un pensare universale, mondiale, se non proprio una storia, perché non è il nostro lavoro. In primo luogo, l'antropologia culturale si pone quasi agli antipodi nel momento in cui riflette su un concetto come provincializzare l'Europa. L'antropologia culturale nasce provincializzando l'Europa. Quindi, evidentemente, di fronte a questa affermazione, a questa dizione, l'antropologo riflette, ripeto, proprio in modo antitetico. Per esempio, c'è un'antropologia domestica, chiamata in modo dispregiativo domestica, che emerge negli anni 60, soprattutto in ambiente britannico, dove gli antropologi inglesi venivano a studiare le comunità alpine piuttosto che il sud Italia. Questa antropologia domestica era la sorpresa di vedere degli antropologi occuparsi di noi. Ecco, quindi evidentemente nei confronti di un problema che lo storico si pone di fronte al fatto che non limitiamo lo sguardo a noi stessi, ma guardiamo anche gli altri continenti. Questo lo vivono in modo del tutto opposto. Tuttavia, come all'inizio della relazione di Silvia Pizzetti era emerso, non è una questione geografica. Non è una questione geografica ed emerge nel corso della storia dell'antropologia, è una questione concettuale. Io posso studiare la comunità alpina, posso studiare un villaggio in Africa. Da un punto di vista fortemente eurocentrico, non nel momento in cui prendo un aereo o mi sposto in treno in un paese vicino, ma nel momento in cui maneggio, utilizzo concetti vicini a me, analiticamente vicini a me, oppure mi azzardo a indagare concetti vicini all'esperienza di coloro che indago, la competenza di Massimo sull'Islam fa emergere che cosa a un certo punto? Dei concetti che chiamiamo pure democrazia, ma ci dice attenzione, democrazia non è un concetto unitario, ci sono delle declinazioni locali, questo inevitabilmente va a decostruire il concetto stesso e a problematizzare. Questo è davvero importante. Nella storia dell'antropologia, l'aspetto quindi dell'indagine concettuale, della crisi concettuale, delle categorie analitiche dell'antropologo è ben più importante che non andare là o restare qua o studiare l'Africa o occuparsi di lontano Oriente. Antropologia e storia, anche se appunto hanno una visione diversa rispetto alla provincializzazione dell'Europa, hanno dei punti in comune, soprattutto a partire dalla metà del Novecento. Tra il 1950 e il 1955, due grandi antropologi, i due in Francia e in Inghilterra, che sono negli Stati Uniti le tre grandi tradizioni di antropologia culturale, due grandi antropologi pongono in modo chiaro, evidente, il problema della connessione tra antropologia e storia. Evan Pritchard, in una conferenza del 1950, sorprendendo il suo maestro Radcliffe Brown, il quale probabilmente voleva ancora un'antropologia rivolta a diventare una scienza positiva delle società, e quindi guardava le scienze naturali con evidentemente sì, uno sguardo utopico, ovvero speriamo che le scienze sociali siano appunto scienze, così come imitando le scienze naturali. e Vasco dice nel 1950, quindi non nel 2000, a metà della storia della disciplina, che è una storia di fine 800, afferma che o l'antropologia diventa storia o diventa nulla. E aggiunge anche un pezzettino interessante: o la storia diventa antropologia o diventa nulla. Ora, questa seconda frase la lascio in parte agli storici, no, nel senso che ci sono state diverse direzioni, non so, la storia sociale, il recupero di una dimensione quotidiana della storia non legata alle grandi istituzioni, questo sicuramente è uno sviluppo. Tuttavia è uno sviluppo di questi nessi anche il riflettere sul fatto, come già si accennava in precedenza, che l'Europa si rende conto dopo il secondo conflitto mondiale che la sua posizione centrale, egemonica da un punto di vista concettuale, politico, economico forse, però sicuramente da un punto di vista concettuale, entra in crisi, necessariamente è entrata in crisi. E quindi volgere lo sguardo anche a ciò che gli antropologi fanno per il mondo è sicuramente il segno di una problematicità di questo centro, l'Europa, che evidentemente non poteva più essere centro per molti. Quindi, come vedete, l'antropologia, nel momento in cui si interroga sulla centralità della dimensione storica nelle sue metodologie, ma soprattutto nell'indagare le altre culture, riflette inevitabilmente su quello che è la centralità o meno dell'Europa. Terzo elemento così di storia dell'antropologia culturale che introduco in relazione al tema generale. Storia mondiale. L'antropologo, ve lo immaginate, chiuso nel suo villaggio, nel suo angolo di mondo, a riflettere, malato di bingo-bondismo, cioè ognuno ha il suo gruppo etnico e parla con i colleghi solo di quel gruppo etnico. Certo, questo è a livello metodologico è l'aspetto evidente, cioè l'etnografia sta un po' alla base, in termini generali, adesso semplifico molto, però sta alla base del lavoro di un antropologo. Tuttavia, nel corso della storia della disciplina ci sono stati dei tentativi di proporre un'interpretazione universale della cultura, che così adesso mi è venuto in mente, ascoltando la relazione di Silvia, potrebbe essere connesso al desiderio dello storico di fare una storia universale. Anche gli antropologi, chiusi nei loro, no, così come uno storico, partendo da un archivio locale, da un archivio notarile, dice: ma perché non proviamo a... Ecco, anche gli antropologi hanno avuto il desiderio di sintesi, desiderio di aprire lo sguardo in senso universale, che, guardate bene, sì, può essere utopico, soprattutto per le culture, più che per la storia, però è un tentativo molto ambizioso, questo dobbiamo rendercene conto. L'Occidente, ponendosi al centro di questo tentativo, evidentemente è colpevole, ha tante colpe, però è un'ambizione che all'Occidente dobbiamo riconoscere, in diverse discipline. Ecco, nella storia dell'antropologia ci sono due momenti, soltanto due, in cui gli antropologi propongono una interpretazione unitaria delle culture, uno sguardo generale, ed è l'evoluzionismo di fine 800 che corrisponde, per quanto concerne i concetti, esattamente alla batteria concettuale presentata da Silvia Pizzetti, ovvero progresso, la razionalità contrapposta all'irrazionalità, la storia contrapposta al mito, l'idea di stagnazione, pensiamo a Morgan della società antica, che poi piacque tanto a Marx, a Engels, eccetera, e lì la stagnazione centrale. E non è Morgan, pensate, nel 1851 scrive La Lega degli Irochesi, un testo molto importante, oltretutto strettamente connesso all'idea di democrazia negli Stati Uniti. 1851. Nel 1876 non si concentra più su un particolare gruppo, gli Irochesi dello Stato di New York, ma scrive La Società Antica, ero proponendo una stagnazione di tutte le culture del mondo. Il paradigma evoluzionista, e poi in particolare l'evoluzionismo unilineare, no, evidentemente, che ha fatto il suo tempo, criticabile, fin troppo ovviamente criticabile, sta alla base di questa svolta, ma sta alla base anche di dell'inizio della disciplina. L'evoluzionismo unilineare, con tutti i suoi difetti, riconosce cultura in ogni angolo di mondo. Questo è già un passo avanti. Riconosce cultura anche ai pigmei o gli aborigeni australiani, i pigmei dell'Africa centrale. Nel momento in cui l'antropologia vuole riconoscersi un metodo, e quindi non una storia universale congetturale delle culture, perché queste erano le stadiazioni fino all'Ottocento, inevitabilmente, e questo secondo me lo storico lo capisce benissimo, inevitabilmente che fa si concentra nuovamente in uno scavo, che può essere in un atto notarile, per noi non è così, in uno scavo etnologico. Franz Boas all'inizio del Novecento, alla Columbia University, dice basta, non possiamo noi antropologi permetterci oggi le comparazioni, oggi, domani perché no? In quanto non abbiamo ancora svolto lavori rigorosi sulle singole popolazioni, su quelle unità di ricerca, cambiano nome a seconda della... Si parla di etnia, forse neanche più di questo in questi anni, però chiamatele come volete, sulle unità di popolazione, sui gruppi che si indagano, ecco, non c'è sufficiente materiale per proporre comparazioni significative e metodologicamente fondate. Ecco che quindi questo progetto unitario scompare. Scompare non perché ci si vergogna di un progetto unitario, ma probabilmente perché è troppo ambizioso per una disciplina appena nata. Occorreva, secondo l'ordinamento di Boas, istituire progetti di ricerca a vasto raggio sulle varie etnografie, quello che lui fa molto bene alla Columbia University e nelle altre università americane riguardo ai gruppi di nativi americani. Quindi una ricerca a tappeto, estremamente rigorosa. Ecco, quindi qua ci si allontana da un'idea mondiale, universale. Verrà recuperata poi negli anni 60, 50, 60, in un tentativo molto particolare che ha influenzato molto la visione della nostra disciplina nelle accademie, ma che evidentemente è un tentativo unico nel suo genere, tanto che oggi nessuno si riconosce in questo tentativo, nessuno fa antropologia utilizzando questa metodologia, ovvero nello strutturalismo di Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, grande intellettuale con degli enormi meriti scientifici, influenza a tal punto l'antropologia francese e l'antropologia mondiale, tenete conto che quest'anno ha compiuto 100 anni, è vivo, vegeto, scrive, e questo inevitabilmente anche questo ha comportato un'evoluzione, soprattutto in Francia, dell'antropologia. Lévi-Strauss recupera su basi filosofiche, non su basi storiche, su basi filosofiche, attraverso le strutture dell'inconscio, le categorie binarie, recupera una dimensione universale, ovvero ogni antropologo produrrà una certa etnografia in un luogo particolare, in un angolo di mondo, tuttavia, c'è un progetto ambizioso, quello di parlare dell'uomo in generale, le culture particolari, ma la cultura umana in generale alla fine. Ecco, questi sono i due tentativi che vedono l'antropologia impegnata in un progetto ambizioso di storia mondiale delle culture. Ecco, possiamo utilizzare questo termine inventato in questo momento. Per quale motivo sono due tentativi che in un certo senso sono stati abbandonati? Beh, l'evoluzionismo, per tanti motivi, evidentemente, io qui devo semplificare e sottolineare l'aspetto che è più importante, sia l'evoluzionismo di fine Ottocento con tutti i suoi limiti metodologici, sia lo strutturalismo di Lévi-Strauss che limiti metodologici non aveva poi, non è paragonabile con l'evoluzionismo di fine Ottocento, guardate bene, tuttavia entrambi lasciavano per strada le concettualizzazioni indigene, i concetti locali. Valorizzavano al massimo quello che erano i concetti analitici dell'osservatore. E i concetti analitici dell'osservatore sono concetti occidentali. Adesso io utilizzo la categoria di occidente Europa, Occidente, sono categorie che non funzionano, le utilizziamo in senso regolativo, in termini kantiani, non sappiamo neanche bene, ovviamente, cioè, non so dove inizia e dove finisce l'Occidente, comunque tutte le volte che utilizziamo un po' ci si comprende, quindi continuiamo a utilizzare. Ecco, questo è un enorme problema in termini antropologici, ovvero il non cogliere i concetti locali, quelli che vengono utilizzati in quel determinato luogo, poi possono essere anche luoghi molto ampi. Ed è su questa concettualizzazione, sulla valorizzazione delle concettualizzazioni locali che gli antropologi guardano con estremo interesse quello che fanno gli storici, ad esempio. Per quale motivo? Perché i concetti analitici da una parte, i concetti locali esistono anche nella storia, ovvero dalla periodizzazione all'utilizzo di certi concetti come legati ai periodi, il feudalesimo applicato in Ruanda, per esempio, a un concetto locale come quello di casta, che probabilmente è strettamente connesso al mondo indiano e chissà se è esportabile in senso universale. Ecco, o ci sono dei concetti locali che diventano analitici, o ci sono dei concetti analitici, feudalesimo, che però è davvero analitico o è legato a una storia di un periodo europeo e non è esportabile, ad esempio, nel descrivere la società ruandese o burundese. Ecco, evidentemente qui antropologia e storia hanno lo stesso problema, si riconoscono, si riconoscono. E in un certo senso hanno gli stessi destini, quando si parlava di multiculturalismo, di studi postcoloniali, di studi culturali, beh, anche l'antropologia attraversata da queste scuole. Tuttavia, ecco, visto che parlo per ultimo, quindi faccio anche un po' tesoro di quello che è stato detto, ma è inevitabile il confronto, tuttavia, vorrei aggiungere un elemento importante, che non è emerso, forse non si è volutamente fatto emergere, ma lo faccio emergere io, poi vediamo se. Che il rapporto di cui si accennava prima tra queste nuove prospettive che dovrebbero valorizzare i significati locali, quindi frantumare, decostruire uno sguardo analitico unitario dell'Occidente, sono strettamente connesse alla dimensione politica. Questo è già stato detto. Io aggiungo un piccolo elemento, forse sono troppo strettamente connessa alla dimensione politica. Che cosa vuol dire? Secondo me è importante, soprattutto all'università, siamo qui, poi state studiando, alcuni di voi, forse tutti, per diventare storici, dovete imparare una metodologia, il vostro interlocutore ideale quotidiano è ciò che dobbiamo studiare. Ecco, in antropologia ci si è resi conto, perché l'antropologia non corrisponde agli studi postcoloniali, non corrisponde agli studi culturali, sono molto trasversali queste prospettive. Ci si è resi conto in antropologia che occorre tenere sempre ben distinto, e all'università questo dovrebbe essere importante, ciò che c'è da studiare e ciò che c'è da salvare. In che senso? Noi oggi riflettiamo qui sull'esigenza di provincializzare l'Europa. Attenzione, non è un senso di colpa. E se qualcuno cerca di far emergere prospettive nuove, non è per pagare un debito nei confronti delle storie disciplinari, delle nostre storie disciplinari. Cioè sì, potrebbe aver senso, ma sarebbe un compito estremamente limitativo. Non è questo il problema. Il problema è di studiare sempre meglio ciò che occorre studiare, non di recuperare una dimensione così, di salvataggio di determinate realtà che sono state tenute colpevolmente ai margini dei nostri lavori. Dicendo questo, nella storia dell'antropologia è estremamente significativo perché teniamo conto che i teorici degli studi culturali, degli studi postcoloniali, consideravano un Evans Pritchard che negli anni 30, studiando la stregoneria Zande, ribalta, anzi ribalta, decostruisce la dicotomia razionale-irrazionale lo considerano un colonialista, al pari di chi si occupava esclusivamente di Europa, no? Non solo perché è andato in Sud a qualche merito particolare. Quelli che i punti di riferimento teorici sono altri, sono Gramsci, per esempio. Questo termine subalterno non è un caso che emerge così con forza in queste teorie. Ecco, quindi teniamo presente che l'esigenza, almeno da parte di molta antropologia, è comunque quello studiare sempre meglio ciò che si deve studiare, non salvare mondi altri. In Africa, per esempio, molta storia dell'Africa emerge in chiave terzomondista, non ponendosi il problema di una riconcettualizzazione delle categorie, ma semplicemente estendendo agli altri, proprio dove il concetto di progresso e sviluppo era assolutamente mantenuto uguale a coloro ai quali si contrapponevano. Quindi non vuol dire occuparsi degli altri necessariamente, riformulare le categorie. L'antropologia culturale non è interessata agli altri, è interessata a come gli altri vedono i loro mondi e quindi inevitabilmente alle categorie, anche le categorie della storia che vengono implicate. E in questo gli antropologi sono molto più interessati a come, per esempio, nelle varie culture, il concetto di tempo, le periodizzazioni, le strutture politiche che si susseguono vengono pensate piuttosto che la ricostruzione di una storia locale. E in questo dialogano molto con alcuni studiosi della storia degli altri continenti, meno con altri. Questo è evidente. Un secondo rischio, oltre a quello di semplicemente di occuparci degli altri perché dobbiamo salvare ciò che non si è fatto prima, è quello di assistere a delle proposte teoriche che non fanno nient'altro che ribaltare la prospettiva eurocentrica. Mi occupo di Africa ed è un chiaro esempio l'afrocentrismo. L'afrocentrismo degli anni 60 si pone come evidentemente rivalutazione del continente africano lasciato ai margini della storia culturale del mondo. Tenete conto che però l'afrocentrismo fa suo tutto un insieme di prospettive che affondano le radici nella razziologia di fine Ottocento, che la razziologia non è razzismo, sono due cose diverse. La razziologia è una visione del mondo, dell'uomo, che ci parla in parte buffa perché è fortemente incentrata sulla dimensione fisica, però non ha nulla a che vedere, sarà una premessa, una base epistemologica, la razzismo, questo poco importa. Ecco, semplicemente ribaltando con le categorie razziologiche, ribaltando le categorie eurocentriche, ovvero la questione era sbiancare l'antico Egitto, annerirlo, ma da un punto di vista del progresso di una disciplina che cercava di dar conto del rapporto tra l'Africa e l'Europa, rapporto sicuramente che passa attraverso l'antico Egitto e la Grecia, certo, non si faceva altro che ribaltare le categorie eurocentriche. Parte, secondo me, secondo il mio modesto parere, parte degli studi culturali, degli studi postcoloniali praticano una forma di ribaltamento di questo genere. Praticando una forma di ribaltamento di questo genere non possono essere delle soluzioni, sono delle soluzioni etiche, ben vengano, ma da un punto di vista dello studioso non fanno presagire a delle trasformazioni metodologiche o teoriche così fondanti, importanti per ripensare le nostre discipline. Quindi questo è evidente. Terzo elemento, sempre legato all'Africa, particolarmente legato all'Africa. Forse, ecco, in questo c'è una distanza nei confronti del relatore che mi ha preceduto, perché l'Africa ha una storia dell'Africa quando si... non l'Africa di Timbuktu del Sudan, ma l'Africa subsahariana, una storia molto particolare legata all'Europa, alla centralità dell'Europa, pensate al colonialismo, ai 2 secoli di tratta degli schiavi e al secolo, grosso modo, di colonialismo. L'Occidente e l'Europa ha permesso, certo, di ripensare la storia, ma inevitabilmente ha colonizzato gli immaginari locali. Un antropologo che oggi si reca in Africa, occupandosi della dimensione storica o di un'altra dimensione, questo poco importa, cercando di andare a rovistare, nella scatola degli attrezzi concettuali degli africani e facendo emergere quelli che sono i concetti locali contrapposti all'Occidente, beh, tornerebbe a casa con un pugno di mosche, perché gran parte di questi attrezzi concettuali sono stati colonizzati. Stati colonizzati nell'immaginario. Quindi, evidentemente, questa ricerca delle categorie indigene, del modo locale di pensare, non deve mai farsi così, agire in un quadro che non è assolutamente meccanico. Tolgo i miei concetti e aderisco a prospettive locali. Le prospettive locali sono, evidentemente, hanno assorbito le prospettive europee. In Africa questo è evidente e inevitabile. C'è una epidemiologia delle categorie, ci sarà anche in storia un'epidemiologia delle categorie. E l'epidemiologia non è una scienza, cioè sì, si può fare, ci si può opporre all'epidemiologia delle categorie, quindi a tutti i discorsi sulla mimesi dell'Occidente, nelle culture altre. Tuttavia si arriva a soluzioni imbarazzanti e angoscianti, ovvero la purezza, le culture incontaminate. Cosa vogliono dire tutto questo? Evidentemente non lo sappiamo, anzi, questo sì che è un'utopia, rintracciare quindi l'Africa indipendentemente dall'Europa. E in questo, anche in questo, è evidente che la storia europea e come l'Europa ha metabolizzato l'alterità è un dato di fatto, non è soltanto una storia disciplinare, ma risiede nelle categorie locali. L'antropologo si occupa in gran parte di questo, per esempio, nel mondo africano. E, sono già le 12:20, è meglio interrompere. L'ultimo elemento, buttandosi fra gli altri, occupandosi di concetti altri, cercando di recuperare le storie dell'altro, è ancora possibile proporre una storia universale? Una domanda che riguarda anche l'antropologo nel momento in cui si chiede: ma è ancora possibile organizzare un discorso unitario sull'uomo? Più o meno è analoga in un'altra disciplina. Ecco, in tutto questo, forse utilizzare determinati concetti che sono sicuramente più contengono la fragilità, contengono l'idea di irrevocabilità. Rispetto a che cosa? Rispetto alle griglie, no? Prima si parlava di griglia, la griglia è qualcosa di, la griglia è metallica, pesante. La struttura, il concetto di struttura ancora di più. Ecco, nel corso degli ultimi decenni, forse utilizzando parte delle riflessioni ermeneutiche in filosofia e non solo, penso per esempio a Wittgenstein che c'entrava poco col fenomeno, con Gadamer, eccetera, però evidentemente riflette sull'universalità delle categorie, sulla forza delle categorie per descrivere il reale. Ecco, emergono dei concetti in sostituzione di struttura, griglia. Una griglia mondiale, concetti che evidentemente sono più sfilacciati, rete, reticolo, connessioni, intrecci, somiglianze di famiglia. Noi antropologi oggi, che nessuno di noi ha intenzione di fare l'etnologo e basta, e quindi di morire di bingobonghismo, evidentemente recuperiamo in maniera massiccia questi concetti. E che sono concetti, tuttavia, presentano dei forti limiti. Sono revocabili, sono frammentari, sono sfilacciati. Allora, ecco, io non so gli storici se pensano a una storia sfilacciata del mondo. Gli antropologi fanno quello. Si sono un po' rassegnati, si sono rassegnati da un punto di vista epistemologico a fare storie sfilacciate delle connessioni culturali, quindi con un'ambizione minore probabilmente, ma con forse dal nostro punto di vista e con le nostre metodologie, con un maggiore rigore metodologico. Io mi fermerei qui.